perché fosti meco stamattina si ostera. Il faccio, chi che c'era? E da Basilio, che per me ti parlò? Ma si voglia di noi che mi Basilio. È vero, è vero. E mi prometti poi, se tu manchi a cor mio, ma la contessa tenderà il caschetto. Che tu pretesto! Parlate in una presenza di questo. Carissimo. Che gente? E mia senz'altro. Orbitevi la porta, o signor scolto. E il Susan dove va? Tace, senza avvocato, ha già vinta la causa. O senato!